Simone che fa TikTok, TikTok, TikTok. Simone che fa TikTok, TikTok, TikTok. Simone che fa TikTok, TikTok, TikTok. Simone che fa TikTok, TikTok, TikTok, TikTok. Lancette sui muri, mi arrapico su Luna Park, mi batte le una e io vado giù. Lancette sui muri, lancette sui muri, mi arrapico su Luna Park, mi batte le due, e io vado giù. Lancette sui muri, lancette sui muri, mi arrapico su Luna Park, mi batte le tre, e io vado giù. Lancette sui muri, lancette sui muri, mi arrapico su Luna Park, mi batte le